Buona giornata dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Cecin. Primo piano, la lunga pagina giudiziaria con le inchieste sulla Lega. In diretta da Roma, Andrea Viali. Sì, buongiorno, si allarga giorno dopo giorno lo scontro all'interno della Lega Nord, ma emergono anche nuovi particolari dalle inchieste giudiziarie sui bilanci del partito. Bene, stando ad alcuni documenti sequestrati dai carabinieri, anche l'affitto della casa romana dell'ex ministro Roberto Calderoli era pagato con i soldi del partito, del Carroccio, 2.200 euro al mese per un appartamento al Gianicolo. A finire nel regolamento di conti in atto nella Lega, intanto oggi è anche Marco Reguzzoni, che era già stato al centro di polemiche nei mesi scorsi. Bene, a tirarlo in ballo, pur senza farne apertamente il nome, è il deputato leghista Gianluca Pini, secondo il quale l'ex capogruppo del partito alla Camera, Reguzzoni appunto, avrebbe speso in un anno ben 90.000 euro con la carta di credito del gruppo parlamentare, spese che, stando a Pini, non avrebbero una giustificazione. Ad alimentare le tensioni interne ci sono poi, lo sappiamo, le rivelazioni sulle attività di dossieraggio ai danni di Roberto Maroni, volute da Francesco Belsito, attività delle quali, secondo l'ex tesoriere leghista Belsito, sarebbe stato a conoscenza anche Umberto Bossi. Di questo quasi certamente il senatore e l'ex ministro dell'Interno parleranno in un incontro che è in programma nel pomeriggio in via Bellerio. Per ora è tutto. Grazie ad Andrea Viali. Una tappa importante per comprendere la tenuta della Lega, travolta dagli scandali, saranno le prossime amministrative. I maroniani puntano tutto sul voto di Verona, scommettendo su Flavio Tosi. A sfidarlo ci sono, per il centrodestra, Luigi Castelletti, avvocato, ex presidente dell'ente Fiera. Si è definito un po' il Monti di Verona. Per il centrosinistra, Michele Bertucco, ex presidente di Lega Ambiente Veneto. Le ha intervistati Maria Luisa Pezzali. Un primo punto da fissare è che nei volani economici della città bisogna cessare con le nomine politiche, ma mettere delle persone preparate e competenti. Il tema di Verona è, come tutto il paese, la crisi economica, quindi dobbiamo produrre posti di lavoro. Le viene attribuita qualche difficoltà perché dicono che Tosi pescherà ancora nell'elettorato PDL. Mi sono candidato a capo di una lista civica, questo sia chiaro, per dare un'alternativa all'elettorato che non si riconosce più né nell'elettorato di Tosi né nell'elettorato di sinistra, ma soprattutto per dare una possibilità a chi aveva già deciso di non andare a votare. Io voglio ritornare ad amministrare come va fatto. L'amministrazione è un gruppo di persone che lavorano assieme, non un sindaco che decide da sola, ma sono abbastanza tranquillo che arriveremo al ballottaggio. Su quali punti intende differenziarsi in opposizione al sindaco uscente? La prima cosa è quello di non occuparsi di amministrare la città. La seconda cosa è di aver gestito la città come se fosse una cosa propria. Secondo lei lo scandalo che sta travolgendo la Lega potrebbe indebolire la ricandidatura molto forte di Tosi? Allora, la Lega Verona è stata gestita come la Lega a livello nazionale, né più né meno. C'è molta poca trasparenza. E a Verona corre per la poltrona di primo cittadino anche Ibrahima Barri, operaio originario della Repubblica di Guinea, primo immigrato candidato sindaco in Italia per il partito di Alternativa Comunista. Sentiamolo ancora al microfono di Maria Luisa Pezzali. Il nostro slogan: noi siamo dalla parte di chi non ha voce. Prima di tutto il diritto alla casa per tutte le famiglie sfrattate, edilizia pubblica per i lavoratori, spazi sociali gratuiti per i giovani e gli anziani che ne hanno bisogno, reddito sociale per i disoccupati e i precari, lotta all'inquinamento evidentemente e difesa dell'ambiente, perché Verona risulta una delle grandi città più inquinate. Qual è il suo obiettivo di questa candidatura? Realistico? Non è un seggio che punto a vincere le elezioni. Diciamo a tutti i lavoratori di votare per me, siano nativi che immigrati. Silvio Berlusconi indagato a Bari insieme a Walter Lavitola. Silvio Berlusconi è indagato a Bari. Il nome dell'ex capo del governo è entrato ufficialmente nell'inchiesta sugli affari illeciti di Walter Lavitola. Entrambi infatti sono accusati dai magistrati pugliesi di aver indotto Giampaolo Tarantini a mentire sulle feste che si svolgevano nelle residenze dell'ex presidente del Consiglio. Secondo l'accusa, Berlusconi avrebbe pagato qualcosa come 500.000 euro a Tarantini perché non dicesse che sapeva che le ragazze portate nelle sue ville erano delle escort. Il paradosso giuridico è che per gli stessi fatti, ora a Bari Berlusconi e Lavitola sono indagati e Tarantini è parte lesa. Invece a Roma Berlusconi è parte lesa e Lavitola e Tarantini sono indagati. Per capire come stanno veramente i fatti, potrebbe servire l'interrogatorio di ieri di Lavitola, che vista la scelta di rientrare in Italia e costituirsi, potrebbe preludere a una collaborazione. Non abbiamo ricevuto alcun provvedimento, ha detto da parte sua il legale del cavaliere Niccolò Ghedini. Possiamo solo auspicare che si arrivi al più presto all'archiviazione. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ed ora il punto sulle inchieste che stanno coinvolgendo la giunta della Lombardia. Il faccendiere Piero Daccò, al centro dell'inchiesta sulla sanità lombarda, quello che avrebbe pagato le vacanze di Roberto Formigoni, non ha mai avuto rapporti direttamente con me, ma con l'assessorato, aveva detto un paio di giorni fa il presidente della Lombardia. Un'informazione che Carla Vites, ciellina della prima ora, moglie del migliore amico del governatore Antonio Simone, in carcere da venerdì, smentisce accuratamente in una lettera al Corriere della Sera. Racconta di averli visti spesso insieme, Formigoni e Daccò, di cene pagate al presidente nei migliori ristoranti di Milano, di aver visto il Celeste in Costa Smeralda, scrive, seguire il faccendiere come un cagnolino al guinzaglio. Racconta di Erika Daccò, la figlia del faccendiere, che le dice: pensa, noi siamo i migliori amici di Formigoni e non riusciamo a dirgli di non indossare quelle orrende camicie a fiori. Una smentita della linea del presidente, che deve fare i conti con una situazione politica e giudiziaria sempre più complessa. Nel Consiglio regionale sono 10 su 80 le persone coinvolte in indagini di vario genere, tra cui il presidente del Consiglio, Davide Boni, che si è dimesso l'altro ieri. Simone Spezia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Nel 2011 gli inattivi che non cercano un impiego ma sono disponibili a lavorare sono 2.897.000, con un rialzo annuo del 4,8%. La quota di questi inattivi rispetto alla forza lavoro è dell'11,6%, dato superiore di oltre 3 volte a quello medio europeo. Il fenomeno è caratterizzato dallo scoraggiamento. Lo rileva l'Istat, secondo cui nella media dello scorso anno le donne che appartengono a questo gruppo corrispondono al 16,8% della forza lavoro, a fronte del 7,9% degli uomini, è il dato più alto dal 2004. Il fatturato dell'industria a febbraio su base mensile sale del 2,3%, dato destagionalizzato dopo il calo di gennaio, mentre scende dell'1,5% su base annua, lo rileva sempre l'Istat. Il premier Mario Monti si dice profondamente convinto che l'intero sistema della giustizia amministrativa saprà affrontare con determinazione e lungimiranza le nuove sfide per assecondare quei processi di riforma che il nostro Paese esige. La Camera conferma la fiducia al governo sul decreto legge in materia di semplificazione fiscale con 459 sì, 71 no e 10 astenuti. Ed ora l'andamento dei mercati finanziari con la nostra Deborah Rosciani, che anche oggi si trova al Salone del Risparmio in Bocconi a Milano. Deborah. Sì, buongiorno. Siamo ancora qui a monitorare l'andamento della giornata di borsa. Il successo della tanto attesa asta spagnola di titoli di Stato non ha convinto i mercati. Il tesoro spagnolo ha collocato bond bonus a 10 anni per 2 miliardi e 540 milioni di euro, ma il rendimento anche all'asta di questa mattina è salito al 5,77%, quindi ancora in su i tassi spagnoli, e questo naturalmente continua ad alimentare la preoccupazione per la situazione finanziaria del paese. C'è stato anche un buon risultato dell'asta francese di titoli di Stato, ma questo non ha aiutato i listini, che stamattina erano partiti positivi dopo i forti ribassi di ieri. Poi in concomitanza con l'asta spagnola hanno annullato tutti i guadagni, adesso hanno ripreso di nuovo quota, ma i rialzi appunto sono piuttosto poco consistenti rispetto ai ribassi di ieri. Più 0,6% Parigi, più più 0,5% Francoforte, l'Ibex spagnolo è appena positiva adesso dello 0,14% e anche Milano spunta un guadagno molto risicato, più 0,16% adesso sul FTSE MIB. I migliori titoli: Autogrill più 4,40%, Banco Popolare più 3,83%, i peggiori Campari meno 2,35%, Telecom meno 1,93%. C'è anche attesa per il G20 di Washington, all'interno del quale si dovrà parlare dell'aumento delle risorse a disposizione del Fondo Monetario Internazionale, e l'euro sul dollaro in questo momento è a 1,31,22. Per ora è tutto dal Salone del Risparmio. Grazie a Deborah Rosciani. Più di 10.000 persone hanno partecipato ai funerali a Bergamo di Pier Mario Morosini, il calciatore 25enne morto durante la partita Pescara-Livorno sabato scorso. La chiesa non può contenere la folla radunatasi fuori dai cancelli. Se dovessi scegliere un albero, tu saresti l'albero di Gesù, ha detto Don Luciano Manenti, amico di Morosini, durante l'omelia. Secondo il CT della Nazionale Cesare Prandelli, di fronte a questa tragedia il calcio deve porsi degli interrogativi. Medicina sportiva e prevenzione in Italia sono all'avanguardia, ma si può migliorare. Giorno di dolore, la canzone di Ligabue ha accompagnato la cerimonia funebre per Pier Mario Morosini. Le parole di Don Luciano Manenti, amico di Morosini, sono state bellissime e commoventi. Ho pensato a un albero, ce ne sono diversi qui fuori la nostra chiesa che sono bellissimi. È l'albero dell'ulivo. Ho pensato a Mario, ho pensato a quest'albero robusto e solido come lui. Un albero che dà un frutto che va spremuto, e una volta spremuto diventa una fragranza che dà sapore a tutto. Quando la tua sveglia suona e tu ti chiederai che ora è. Così, con una folla incredibile, con più di 5.000 persone presenti, si sono svolti i funerali di Pier Mario Morosini, il calciatore di 25 anni morto durante la partita Pescara-Livorno e che ha sorpreso tutti per la sua forza nell'affrontare con coraggio le disavventure della vita. Sopra il giorno di dolore, credo a cru. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Nuove rivelazioni sullo scandalo che coinvolge la Lega, soldi del partito per l'affitto di Calderoli. Silvio Berlusconi indagato a Bari insieme a Walter Lavitola. Lavoro, 3 milioni di italiani inattivi, record fra chi rinuncia a cercare un posto. A Bergamo in migliaia per l'ultimo saluto a Morosini. In questa seconda parte di GR24 ripartiamo dalla pagina dedicata agli esteri. Mancano pochi giorni al primo turno delle presidenziali francesi. Un crollo inaspettato? Non proprio, perché è da un po' che i francesi hanno rotto con Sarko, complice la crisi che ha dato una mazzata alla gente comune e anche ai governanti di mezza Europa. I sondaggi lo danno spacciato già al primo turno. Al ballottaggio nessuna chance, nemmeno se chiedesse aiuto al centrista Bayrou, promettendogli magari il posto di primo ministro. E poi, come se non bastasse, lo hanno mollato anche i suoi. La sconfitta è inevitabile, si è lasciato sfuggire in un fuori onda il premier Fillon. Dall'altra parte, il socialista Hollande non ha la strada spianata, ma quasi. Le rilevazioni lo danno al 30% alla prima tornata. Al secondo turno il leader dell'ultrasinistra Mélenchon gli ha già assicurato il suo appoggio, portando in dote il 15%. Hollande non ha mai avuto tentennamenti sulla linea da seguire. Il suo esecutivo sarà di sinistra, così come il primo ministro. Je suis socialiste. Je suis de gauche. C'è da dire che Hollande non piace ai mercati. Il suo programma prevede misure dal costo doppio rispetto a quelle del presidente uscente e un ritorno più lento all'equilibrio dei conti pubblici. È su questo che sta giocando le sue ultime carte Sarkozy, insidiato anche a destra. Marine Le Pen, accreditata al 17%, continua a raccogliere consensi, essendo riuscita a sdoganare il fronte nazionale verso l'idea di un partito contro le élite. Tutti i candidati, però, 10 tra cui alcuni semi sconosciuti, dovranno fare i conti con gli indecisi, circa 8 milioni, e con l'astensione, che potrebbe avere la meglio. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. I talebani afghani hanno duramente condannato la vicenda delle foto scattate dai soldati americani accanto ai cadaveri di kamikaze, definendole disumane. Il segretario statunitense alla difesa ha condannato l'episodio e il presidente americano Obama ha chiesto un'indagine. La Siria non ha ottemperato ai suoi obblighi di ritirare truppe ed armi pesanti dalle città, lo ha scritto il segretario generale dell'ONU Ban Ki-moon in una lettera al Consiglio di Sicurezza. Almeno 30 morti secondo il bilancio riferito dalla TV satellitale Al-Arabiya per una serie di attentati che ha colpito oggi Baghdad ed altre 4 città del nord dell'Iraq. Sentiamo tutta l'Italia con noi, così si sono espressi 2 marò italiani detenuti nel carcere indiano del Kerala dopo l'arresto a febbraio con l'accusa di aver ucciso 2 pescatori scambiandoli per pirati. 2 militari italiani oggi per la prima volta hanno potuto abbracciare i loro familiari giunti in India per incontrarli. Ed ora ci colleghiamo con la sede di Confindustria, dove il presidente di Confindustria, Luigi Squinzi, designato, sta presentando la sua squadra in diretta. Alessandra Schepisi. Sì, buongiorno da Viale dell'Astronomia, dove è appena terminata la conferenza stampa del presidente designato di Confindustria, Giorgio Squinzi, che questa mattina ha presentato alla Giunta la sua squadra di presidenza che lo affiancherà per 4 anni il suo programma. I voti a favore sono stati 102, 21 contrari, 22 astenuti, 150 in tutto i presenti. 11 i vicepresidenti che lo affiancheranno, di cui 2 donne. La poltrona delle relazioni industriali va a Stefano Dolcetto, lo sviluppo economico ad Aurelio Regina, per la ricerca e innovazione Diana Bracco, per le politiche regionali e la semplificazione Gaetano Maccaferri, ad Antonella Manzi è andata all'organizzazione, ad Aldo Bonomi le reti di imprese, ad Ivano Bello l'education, a Fulvio Conti il centro studi, Alessandro La Terza il mezzogiorno. Istituiti poi alcuni comitati tecnici, tra cui quello sul fisco guidato da Andrea Bolle e sull'internazionalizzazione da Paolo Sveglia. Da oggi, ha detto Squinzi, dobbiamo metterci al lavoro con serietà e determinazione perché il momento è molto difficile, dovremo impegnarci al massimo e raggiungere l'obiettivo di far tornare la crescita in questo paese. Confindustria è determinata fortemente ad andare in questa direzione e ce la metteremo tutta. Squinzi ha poi spiegato che le linee guida verranno rese note nei prossimi giorni, ma comunque ha anticipato che una delle priorità è la semplificazione burocratica e normativa, ma su questo, ha detto, il Premier Monti è in linea con noi. E per il momento da Roma è tutto. Grazie ad Alessandra Schepisi e siamo arrivati alla 4ª puntata del nostro viaggio Adesso o mai più. Adesso o mai più. Le emergenze di un paese sommerso. La pressione fiscale è troppo alta e sbilanciata e frena la crescita. L'analisi della Banca d'Italia risale a fine 2011, prima che divenissero completamente operative le manovre estive del governo Berlusconi e prima del decreto Salva Italia, firma Mario Monti. Manovre queste che, a detta dei maggiori operatori economici internazionali, determineranno nei prossimi 3 anni un ulteriore incremento della pressione tributaria. Giusta dunque la linea del rigore, ma senza soffocare l'economia e chi opera in essa, è il ragionamento della Banca d'Italia a partire dagli imprenditori. Nessuna giustificazione per chi evade, è bene ribadirlo, ma i dati che riguardano il nostro paese sono impietosi. In Europa la pressione fiscale è oggi mediamente inferiore al valore della fine degli anni 90. In Italia è tuttavia superiore e si appresta a raggiungere quest'anno i massimi di sempre. Secondo Confcommercio l'Italia ha il record mondiale di pressione effettiva pari al 55% del PIL. L'imposizione fiscale complessiva e il rapporto al reddito imponibile mette in evidenza Confindustria e al 58% decisamente superiore rispetto alla Germania. Germania 43%, al Regno Unito 40% e alla Spagna 29%. Per le nostre imprese, insomma, competere sul mercato internazionale con queste premesse è difficile, è come partecipare ad una corsa ciclistica con una gomma a terra. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Photoshop, 2 clandestini rimpatriati in aereo con lo scotch sulla bocca, polemiche su internet e il fatto diventa un caso politico. Una foto denuncia che ha fatto il giro del web, fascette di plastica a bloccare i polsi e nastro da pacchi intorno alla bocca di 2 cittadini rimpatriati dalle forze dell'ordine con il volo all'Italia, Roma, Tunisi. Lo scatto dei 2 seduti in fondo all'aereo e del regista Francesco Sperandeo che si trovava a bordo e che l'ha pubblicato poi su Facebook generando un tam tam di polemiche in rete. Gli agenti in borghese mi hanno detto che si trattava di una normale operazione di polizia, ha raccontato il regista. Siamo stati gli unici a protestare, ha aggiunto. Probabilmente non tutti si sono accorti. Le ha fatto qualche impressione il fatto che ci sia stato un tam-tam così forte via internet delle sue foto? Sinceramente non l'aspettavo. Perché la situazione era veramente grave. Ha visto che si agitavano tanto queste 2 persone? Beh sì, ovviamente, è chiaro, sì. Polemiche rimbalzate nei palazzi. Il governo riferisca con la massima urgenza e la sollecitazione del presidente della Camera Gianfranco Fini, mentre il capo della polizia Manganelli chiede una relazione dettagliata all'ufficio della polizia di frontiera dello scalo aereo di Fiumicino. Secondo una ricostruzione fornita dal Dipartimento di Sicurezza, a seguito di un respingimento coinvolgimento, gli algerini avrebbero rifiutato l'imbarco, iniziando a mordersi le labbra. Da qui la decisione di applicare una mascherina sanitaria, che avrebbero rimosso. Lo scotch sulla bocca degli immigrati, spiegano, sarebbe stato quindi applicato per questioni di sicurezza. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Guidata dal presidente di giuria Nanni Moretti, la squadra tricolore al 65esimo Festival di Cannes, che si terrà dal 16 al 27 maggio, annunciata a Parigi, vede unico italiano in gara Matteo Garrone al ritorno dopo Gomorra. Il suo reality Big House racconta il mondo del Grande Fratello TV. Protagonisti due attori sconosciuti, Aniello Arena e Loredana Simioli, accanto a Claudia Gerini. Fuori concorso, Io e te di Bernardo Bertolucci e proiezione di Mezzanotte, Dracula 3D di Dario Argento. Classical Music World è la prima fiera internazionale dedicata alla musica classica. Si apre oggi a Verona Fiera e dura fino a domenica. Si rivolge ai giovani con un ricco programma che vede Verona come capofila italiana nel mondo delle sette note, con la stagione lirica all'Arena, insieme ai teatri, all'Accademia, alle scuole di musica e ai conservatori. Uno degli ideatori, Pierluigi Sarzi Amadè, al microfono di Adriana Fracchia. La parola d'ordine per noi, per tutto lo staff di Classical Music World, è sdoganare, cioè sdoganare il fatto che si pensi che la musica classica sia solo per pochi eletti, anziani, annoiati, oppure per pochi eletti che hanno l'orecchio assoluto e possono ascoltare solo questo tipo di musica. Anzi, la musica classica è proprio per tutti. È assolutamente per tutti, tanto che abbiamo utilizzato come immagine così promozionale di Classical Music World una figura molto forte, borderline, che è una signora corpulenta, una signora, è un trans in pratica. Questo appunto perché? Perché da guardare questo trans è patetica, è veramente patetica, e quindi abbiamo scherzato moltissimo sull'immagine, mantenendo però intonsa la sacralità della musica classica. L'immagine è patetica come patetica è la sonata per pianoforte di Bach o di Tchaikovsky. Ecco, quindi c'è stato questo legame, però il nostro intento veramente è quello di sdoganare ogni preconcetto sulla musica classica. E questo GR24 è stato curato da Daniele Biacchessi e condotto da Maria Piera Ceci, in regia Roberto Scaltritti. Prossimo GR24 alle 14. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.